This Is Not an Exit. Digressioni musicali dalla fine del secolo breve. Who can say? Will the world turn cold? Holding an ice age. Will the withering hand be the one foretold? Will anyone be getting old before they throw it all away? We can't be told, then are we bought and sold? Please say. I don't want to be the victim of my own mistake. And those who speak say the least, while the rest know best each day. Brings it all a little closer while the figureheads make pointless display. Who can say? Will the world turn cold? Holding an ice age. Will the withering hand be the one foretold? Will anyone be getting old before they throw it all away? Beh, buonasera a tutti, siamo ancora in diretta, di nuovo in diretta qua a Radio Città del Capo. Sono le 21.07 minuti primi, benvenuto dottor Scarpa. Buonasera a tutte e a tutti, anche a lei dottor Ferrari. Buonasera, oggi parliamo dell'altra parte del mondo per noi italiani. Dei nostri antipodi. Ebbene sì, New Zealand stasera, novità, insomma davvero, chi è che parla adesso della Nuova Zelanda a livello musicale? Ma non lo so, può accadere anche a noi che qualcosa dell'attualità si inserisca di traverso, si faccia tipo un brutto fallo e ci inserisca, e il fallo è stato veramente brutto. Le cronache nere, no? Con sì, la piccola cronaca nera che rimbalza della grossa cronaca nera europea. Infatti qualche settimana fa, direi 3 settimane fa, un cittadino di Fidenza, qua in provincia di Parma, sembra che abbia chiamato le forze dell'ordine, l'arma dei carabinieri, perché diceva di aver visto una fantomatica bandiera dell'ISIS appesa a un balcone, a un terrazzo. L'avrete sentito un po' tutti, è rimbalzata sui principali giornali. Non era una bandiera dell'ISIS, il povero inquilino di quel terrazzo dovette dimostrare trattarsi della bandiera della Nuova Zelanda, appunto. Ma noi questa sera parleremo soprattutto di Peter Jeffries e delle sue escursioni musicali. Thank you. Beh, a questo punto spieghiamo anche perché, se qualcuno non se lo ricordasse, ok, siamo sempre a This is not an exit, parliamo tipicamente del contesto tra 88 e 93, invece questa volta abbiamo detto, parliamo di Nuova Zelanda e abbiamo svelato anche l'arcano che si è portato, perché parla di Nuova Zelanda, è talmente periferica, appunto, gli antipodi. Beh, appunto, questo cittadino di Fidenza appese la bandiera non della Nuova Zelanda, ma quella degli All Blacks, la squadra di rugby della Nuova Zelanda, che effettivamente è una felce bianca su sfondo nero. Poi che qualcuno se ne immagini come bandiera dell'ISIS, non lo so, però la paranoia gioca brutti scherzi. Vabbè, ah, adesso basta il bianco-nero, se la Juventus vince lo scudetto bisogna stare attenti. Può darsi, ISIS anche lì. A parte gli scherzi, altro fatto brutto di quel periodo, di queste tre settimane, che è successo 3 settimane fa, è la morte di Jonah Lomu. E chi era Jonah Lomu? Probabilmente il rugbista più famoso di tutti i tempi. Almeno per noi non addetti ai lavori. Jonah Lomu, 20-25 anni fa, fin da ragazzino era un prodigio del rugby, era praticamente il Michael Jordan del rugby mondiale ed era un ottimo esempio di integrazione, una bellissima storia che servì per propagandare il rugby e anche la Nuova Zelanda a questo punto, perché erano All Blacks, era un aborigeno, quindi di colore, nello sport dei coloni, perché comunque il rugby è lo sport dei coloni per eccellenza, lo sport che si gioca in tutte le colonie inglesi, ma ovviamente nacque in Inghilterra e si diffuse subito in Scozia, Galles, Irlanda, dove tuttora viene giocato. Tra l'altro la Nuova Zelanda quest'anno ha vinto i mondiali, ma purtroppo Jonah Lomu, che soffriva di problemi di salute piuttosto seri da parecchio tempo, ci ha lasciato piuttosto giovane. Questo fu il nostro incipit. E da qui a pensare alla Nuova Zelanda il passo è stato breve, era un po' che ci pensavo, facciamo una bella puntata sul rock della Nuova Zelanda, poi te lo dimentichi perché appunto è un po' remota. Beh sì, poi l'anno scorso affrontammo l'Australia e perché no affrontiamo i vicini di casa dell'Australia, perché no, comunque la Nuova Zelanda penso che musicalmente, ma proprio geograficamente, sia la più vicina all'Australia. L'Australia è molto più famosa, c'erano più artisti, poi molti venuti anche in Europa, tra gli altri insomma Nick Cave il più famoso, poi abbiamo Red Birdman e quant'altro. Invece dalla Nuova Zelanda davvero è difficile trovare degli artisti musicalmente parlando. Sì, tutto cominciò negli anni 80, ma negli anni 80 all'inizio soprattutto non è che arrivasse molto, forse qualcosa in Inghilterra, ma nel resto del mondo era difficile. Poi però un po' grazie al punk, che permise a tutti, almeno idealmente, di prodursi, di autoprodursi, con l'idea del do it yourself, ma forse in Nuova Zelanda fecero di necessità virtù, o quantomeno la Flying Nun, che è una delle etichette assieme ad altre che permisero a tantissimi gruppi neozelandesi di avere un contratto, perché altrimenti nessun talent scout di grosse etichette o piccole, figuriamoci, si sarebbe recato da quelle parti per metterli sotto contratto. Thank you. Questo è sempre Peter Jefferies, che inizialmente usciva su Flying Nun. Una storia stranissima, perché cominciò con suo fratello con i This Kind of Punishment, e prima ancora con un altro gruppo che aveva avuto anche un buon successo, ma erano poco più che adolescenti. Poi con i This Kind of Punishment si chiusero in studio, fecero 2 album e 14 concerti nel giro di 3 anni, e poi si sciolsero. Era l'87 e poi sono usciti con questo disco, che invece lo riportò qualcosa di completamente diverso, l'avete sentito, completamente strumentale, assieme a John Oloni, che era un cantautore folk neozelandese, anche egli molto poco conosciuto. Ma parliamo un po' di note di colore della Nuova Zelanda, perché è divertente poi per certi aspetti questo insomma staterello, no? Se vogliamo, lì nell'oceano, che praticamente ha soltanto alla fine degli anni Ottanta, il periodo insomma che ci riguarda, solo 3 milioni di abitanti e ben 35 milioni di pecore. Pecore che comunque nell'89 portarono addirittura a un piccolo incidente diplomatico con la comunità internazionale, perché praticamente quando l'Ayatollah Khomeini in Iran condannò a morte lo scrittore Salman Rushdie, e la comunità internazionale naturalmente reagì col boicottare l'Iran, la Nuova Zelanda si oppose, disse no, non possiamo, perché esportiamo 1 milione di pecore all'anno in Iran, se ci togliete anche questo, insomma, l'economia nuovazelandese sarebbe morta. Quindi insomma, meglio vendere le pecore a Khomeini che morire di fame. La guerra delle pecore. He's been living in a city in the north. He's staying in the district that I used to live in. He's been in some trouble with the law. Thank you. finding no recognition as each sign of life. Fades the precision of this aging land. An abandoned flipper in a world of stone. There's a man on the shoreline with the white Questo è ancora This Is Not An Exit, state ascoltando assieme a noi Peter Jefferies, un artista neozelandese, direi un grande eccentrico misconosciuto. Non so quanti di voi gentili ascoltatori ed ascoltatrici all'ascolto di Radio Città del Capo conoscano Peter Jefferies. Beh, se lo conoscete fatevi vivi, gli sms sono sempre benvenuti, ben accetti. 348-76-49-289, ripeto, 348-76-49-289, oppure se siete davanti a un computer, diretta@radiocittadelcapo.it. Dicevamo, questo è sempre Peter Jefferies, poteva anche sembrare un altro autore del catalogo Flying Nun Records. Flying Nun che sembrava che avesse addirittura un suono proprio, si parlava negli anni 80, perlomeno nelle riviste specializzate, che man mano, verso la fine soprattutto degli anni 80, quando poi alcuni dei gruppi neozelandesi passarono addirittura su Major, riscoprirono la Flying Nun e ribattezzarono il Dunedin Sound, oppure il Flying Nun Sound. Ma gli artisti si schernivano, ma avevano anche ragione, non era una cosa voluta. È vero, c'era stato il punk, quindi l'etica do it yourself, ma in realtà la verità era che nella parte meridionale della Nuova Zelanda, nell'isola meridionale, gli studi veri e propri, se c'erano, erano limitatissimi, forse solo uno, ed era quello dove la Flying Nun faceva registrare tutti i suoi musicisti. E ovviamente il suono era ben distintivo, perché tutto veniva registrato su un 4 tracce Teach dell'epoca. Of fruit beneath each cracked door. dream returns, dreams between, pass between all of us who dwell within this house. Lying, being, staying, useless, center of rooms, distanced, even in the crowd, falling flesh, its amusements. Then, all night, the sound of bells disturbs the filthy dreamers. Beyond every hour, the dream returns, wherein you watch at a distance as the lovers bury the emotion of their mutual desire beneath a stone to the music of tendons, playing flutes and bearing trays of pins in their arms. Then we follow down the hill and once more enter. Sempre sintonizzati su Radio Città del Capo, stasera parliamo di Peter Jefferies, della scena new, della Nuova Zelanda, mi viene sempre New Zealand, non so perché, forse per la barca a vela. Per la barca a vela, sì, Nuova Zelanda, insomma, non mi piace più. Però New Zealand non sono solo vele, kiwi e rugbysti. No, non sono, no, è anche una scena cinematografica molto molto importante, anche se comunque in questo periodo che noi analizziamo, insomma, fine anni 80, il cinema ha avuto un po' di crisi perché lo Stato comunque tagliò i fondi e si produssero soltanto 4-5 film in un anno, insomma molto poco per una zona comunque di 3 milioni di abitanti. Però nel 93 ebbero la fortuna, insomma, di essere premiati con il film Le zone di piano della regista Jane Campion, appunto al Festival di Cannes, e furono, insomma, vincitori del Festival di Cannes di quell'anno, del 93. Una storia che parlava appunto dei nativi della Nuova Zelanda, i Maori. E questo film appunto parla di un analfabeta interpretato da Harvey Keitel, appunto un indigeno Maori che riesce, insomma, a stabilire un rapporto con una pianista e a imparare, lui ignorante, insomma, quindi la musica viene, no, anche nel cinema si parla appunto di musica della pianista. È un festival, è un film appunto che vince il Festival di Cannes nel 93. Che altro vogliamo dire? Che comunque il regista neozelandese sono quasi tutte donne, perché parliamo anche di Melanie Reid, 32 anni all'epoca, che fa un film un tipo di lavoro forse soltanto che c'è in Nuova Zelanda, che praticamente sono la posta vocale, praticamente sì, ci stanno questi personaggi che vanno in giro tipo i telegrammi però vocali a dare gli auguri e a voce, non scritto, molto prima di Google traduttore. Sì, un tipo di lavoro molto strano che praticamente all'epoca aveva molto successo in Nuova Zelanda, insomma, e la gente guadagnava così, a dire auguri vocalmente. Of money all the time, doing it to annoy her. She's on his conscience day and night, so yet, like her employer. Tomorrow he's sure to be a smart fellow. Keep the bastards guessing. Through a hole in the wall. Just to watch his heart undressing. Likes to take the long way home. It's another fine decision. Six to seven, he'll be all alone. So he turns on television. Doesn't even notice as the hour rolls by. Gets lost inside the screen. Film about the evening sky. And live someone else's dream. Smart fellow, keep the bastards guessing. They all come and peep through a hole in the wall. Because the view looks so impressive. Это Бруклинская табачная компания. Beh, siete sempre qua con noi su Radio Città del Capo. Questa è This Is Not an Exit. Stiamo comunque ascoltando. Cambia abbastanza anche da brano a brano Peter Jeffries, ma d'altronde lo diceva lui stesso. In primo luogo, non aveva mai preso lezioni di musica. Aveva preso una lezione di canto, nella quale gli avevano detto che sì. Faceva le cose a metà, dovresti farle in un altro modo, ma lui ha continuato a farle a modo suo. E comunque i risultati sono ottimi. Se non che il primo disco che fece è un po' per contrasto con quanto aveva fatto prima col fratello Graham, con il quale aveva inciso parecchi dischi e precedentemente ancora con un altro progetto avevano fatto tantissimi concerti. Per azione di tutto ciò, il primo disco che fece fu con John Oloni, l'abbiamo sentito all'inizio della trasmissione. Fu completamente strumentale, tra l'altro con strumenti abbastanza inconsueti, a parte la batteria, che era lo strumento principale di Peter, c'erano piano, nastri, percussioni e John che suonava la chitarra, ma oltre a quello era una chitarra effettata, una chitarra synth, tipo quella che usava Robert Fripp nei King Crimson alla fine degli anni 70, inizio 80. Tutti però in una salsa, come avete potuto sentire, artigianale. Era una specie di avanguardia, rock avanguardistico fatto con uno spirito punk, appunto, abbiamo detto, facendo di necessità virtù. E i risultati sono stati ottimi, anche se inizialmente per pochi. Beh, sicuramente poi dalla musica, ma anche dai testi, si capisce che comunque è un artista che viveva in mezzo alla natura, perché comunque di tutto si può dire, a meno che in Australia non ci sia tanta natura. E anche nei testi, insomma, si parla di questo rapporto, no? di una persona che comunque è immersa nella natura, quasi selvaggia. Thank you. Siete sempre in ascolto di Peter Jeffries, ricordo Jeffries, scritto così se lo volete cercare. Questo è un disco abbastanza peculiare, raro anche da trovare, però penso ne valga la pena. Si chiama The Last Great Challenge in a Dull World, e la cosa bella di Peter Jeffries e comunque della scena musicale neozelandese è che c'era già allora una grandissima collaborazione. È vero, uscivano a nome Peter Jeffries, il primo no, era già in compagnia, non era proprio un album solista, ma in questo caso era sì un album solista, ma un po' perché ci mise 2-3 anni a registrarlo, siamo ormai nel 1991, però praticamente tutti i componenti dell'etichetta Flying Nuns parteciparono a questo disco. Si parla di gruppi che sono ancora in giro o comunque sono diventati con gli anni famosi, a differenza del nostro Peter che rimase più o meno in un semi-anonimato nonostante girò il mondo, oltre a spostarsi per la Nuova Zelanda 4-5 volte. Poi si trasferì negli Stati Uniti, di sicuro soggiornò a Chicago e poi venne anche in Europa, poi per poi tornarsene ultimamente negli ultimi anni in Nuova Zelanda come insegnante di batteria. Dicevo, in questo disco c'è Bruce Russell e gli altri del Dead Sea, che era un gruppo piuttosto famoso che penso sia ancora in giro se non vado errato, Michael Morley e Robbie Yates, sempre del Dead Sea, David Mitchell, Alastair Galbraith, Robbie Muir, tutta gente che cominciò negli anni 80 con una piccolissima etichetta, appunto, e fece un po' la storia del rugby, c'è poco da fare. Il rugby era una nicchia per pochi addetti ai lavori, pochi magari non in Italia sicuramente, in Inghilterra un po' meno. Stessa cosa per il pop neozelandese, inizialmente furono i Crowded House, forse qualcuno se li ricorda, che fecero alcuni pezzi molto radiofonici, e poi a ruota a tutti gli altri, però con uno spirito assolutamente di bassissima fedeltà. Anche perché i mezzi, abbiamo detto, erano quelli che erano. Yeah. waiting up for hours with all the lights on. Dalla serie Le interviste impossibili di This is not an exit, una domanda a buon Peter: com'è che avete registrato il disco? Ma quando io e Robbie Muir, intendo un altro della scuderia Flying Nun, registrammo Catapult, non immaginavamo che sarebbe diventata una delle preferite del pubblico. Può apparire semplice, ma è un pezzo molto complicato da suonare. Robbie incise la traccia di chitarra acustica almeno 50 volte prima di riuscire a terminarla. Anche On an Unknown Beach mi prese un sacco di tempo. La stesura base del testo venne fuori in poche ore, ma non riuscì a completarlo che in 6 mesi di tempo, piano piano, parola per parola. Non volli toccare la musica fino a che non terminai il testo, perché era su quello che volevo puntare. E quando finalmente tutto mi sembrava a posto e provai le parole sulla melodia che avevo immaginato, beh, a quel punto vidi che non funzionavano e fui costretto a ricominciare tutto da capo. Bob Dylan una volta disse che le canzoni sono già lì e tu devi solo scriverle. L'ultima frase di Last Great Challenge in the Dual World dice: sono un registratore che parla in una linea telefonica che mi ascolta. Ecco, non so da dove vengono le canzoni. Si sformano da qualche parte. Non credo di scriverle per se stesse. Mi sento come una radio che si sintonizza da qualche parte sperduta nel nulla. In my head today, they say so many things at once. It's all random, nobody's planned them, spinning round in a verbal flood. What's that before you've begun? Being with yourself on every point except one, understated when overheard. Each thought relates to a language beneath no word. Well, consider it a gift. Echoing mirage in a maze of mirrors. its little comfort, she is mildly amused and pleased to discover this prescription is repeatable in case by some unseen or unforgone conclusion these events should reoccur. Now be needed, it's a very crowded room last seen of a private kind of drama that began around a man last seen with the prison that she gave him and a promise that he could not keep, and she stares now at a husband good in terms of which he cannot speak. There's no more to be said, and the wine and the evening have gone to her head. She's looking to find something she forgot. Siamo ormai alla fine, dico bene, la tua scarpa? Sì, diciamo che oggi fra pecore, registe quasi tutte donne di una nazione di 3 milioni di abitanti e le zone di piano, abbiamo parlato un bel po', no? A 360 gradi della Nuova Zelanda, che dici? Anche di gente che probabilmente si mimetizzava dietro questo suono lo-fi, ma in realtà era parecchio colta. Peter Jeffery sotto suonava la batteria, comunque suonava tra l'altro in maniera percussiva, un po' come nel jazz degli anni 30-40, suonava pianoforte e tutti i suoi collaboratori suonavano comunque strumenti anche della tradizione classica, tipo la viola, vari tipi di percussione, oppure sintetizzatori, magari non di primissimo ordine, chitarra synth. Insomma, può essere una periferia dell'impero a Nuova Zelanda, ma musicalmente è una scoperta, anzi, ci promettiamo di tornarci e di fare qualche altro excursus da quelle parti. Sì, sperando di non aver annoiato le ascoltatrici e gli ascoltatori, insomma, che la trasmissione sia stata di vostra piacere. Ci risentiamo giovedì prossimo, allora. Buonanotte a tutti e a tutte. Buonanotte. Pump up the volume.